la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, Oscar Giannino vi ringrazia, vi saluta in questo mercoledì 16 di luglio, sono le 16:36, primi 34 secondi, come al solito siamo in ritardo, allora vado subito al punto di giornata in questa breve trasmissione, però per consentirvi anche di dare le vostre opinioni telefonando 800 24 00 24 con gli sms al 349 238 6666. In particolare, se siete amministratori o cittadini di comuni italiani bloccati dal patto di stabilità stupido, cioè dal fatto che magari vivete in un comune virtuoso che spende poco, che ha risparmiato molto, ma che per le regole di tesoreria fatte dallo Stato non può riallocare quanto ha risparmiato per pagare i debiti o per spenderle in opere pubbliche, in infrastrutture, beh, questa è la vostra giornata. Perché? Perché quello che accade oggi, lo trovate sui giornali di domani, è che è stata resa nota dal governo un primo passo verso i fabbisogni standard della spesa nei comuni italiani. C'è stata una conferenza stampa nella quale il sottosegretario Baretta, secondo me, non si deve essere reso conto del paradosso che assumevano le sue parole. Ha detto, a proposito del patto di stabilità stupido, quello interno, che appunto punisce i comuni virtuosi invece di incentivare il comportamento virtuoso degli amministratori, li punisce, ha detto: no, ma noi siamo alacremente al lavoro per superare il patto di stabilità stupido, alacremente al lavoro. E poi ha aggiunto: ci diamo 3 anni per superarlo. Siccome non si è reso conto, sottosegretario Baretta, della paradossale autoironia, perché uno, capite, quando c'è questo cronoprogramma di riforme così impegnative, giustamente impegnative da parte del governo, e poi dice: il patto di stabilità ci diamo 3 anni di tempo per superarlo, insomma sembra un po' il vecchio Platone quando diceva che l'unica vera dimensione del tempo è l'eternità. Ecco, il tempo delle riforme pubbliche a volte rischia di essere così. Allora, la cosa che oggi abbiamo deciso di fare è esattamente far parlare un sindaco che ci aveva scritto di un comune ipervirtuoso, un comune che ha tagliato la spesa per un ammontare che è record nella sua provincia, nel Cuneese, nel Piemonte, perché ha tagliato la spesa della bellezza di 487 euro pro capite, quindi ha portato la spesa per abitante da 1110 euro a 687 euro, quindi veramente all'osso. Eppure ciò malgrado ci spiegherà che è costretto da queste regole statali e dal taglio dei trasferimenti nel frattempo dello Stato a tenere al massimo le aliquote e le tasse per i suoi cittadini, pur avendo, ripeto, un comportamento non solo inappuntabile, ma che dovrebbe essere premiato, non bastonato. Nel frattempo, chi volesse iniziare a vedere, almeno nei capoluoghi di provincia italiani, perché hanno dato la tabella per il discostamento della spesa pro capite storica, cioè quella realizzatasi davvero rispetto al fabbisogno standard per capoluogo che è stato elaborato dal Tesoro, si va attualmente sul sito del Corriere, sul sito del Corriere della Sera, in alto a destra trovate una tabella con una classifica, e c'è effettivamente la fotografia della disparità italiana, perché noi abbiamo comuni come Perugia, per esempio, che spendono più del 30% rispetto a quello che dovrebbero rispetto al fabbisogno standard per abitante, Brindisi più 29%, Taranto più 25%, Potenza più 24%, Roma, come ovvio, Fiumicino, anzi, a dire la verità, scusate, Fiumicino, la provincia di Roma, più 23%, Salerno più 22%, Lecce più 19%, Venezia più 19%, Casoria più 16%. Ci sono poi comuni lontanissimi, perché spendono molto meno dal fabbisogno che è considerato standard per l'offerta minimale di servizi accettabile. Per esempio, Lamezia Terme, tra i capoluoghi di provincia delle regioni a statuto ordinario, e quella messa peggio di tutti. Lamezia Terme, quindi stiamo parlando di Catanzaro, e a Lamezia Terme si spende il 40% in meno rispetto a quello che dovrebbe essere il fabbisogno standard calcolato. A Vicenza il 32% in meno, a Forlì, quindi in Romagna, il 20% in meno, a Bergamo il 15% in meno. Quindi c'è una bella fotografia dell'Italia che vi consente di iniziare a capire, a seconda di dove siate, perché pagate tasse più o meno elevate e quanto davvero si spende rispetto a quello che si dovrebbe. Ma sta di fatto che queste regole bastonano appunto i migliori, ed ecco infatti il sindaco che prego di spiegarci la situazione nella quale si viene a trovare nel suo comune. Il comune si chiama Manta, in provincia di Cuneo, e l'assessore al bilancio, perdonatemi anzi, che è il nostro ospite, si chiama Paolo Vulcano. Buon pomeriggio e grazie di averci scritto, Paolo. Buon pomeriggio a lei, signor Giannino. Allora, iniziamo dalle note dolenti per gli abitanti di Manta, cioè le note dolenti sono le aliquote al massimo. Sì, i nostri cittadini non lo sanno ancora perché stiamo predisponendo tutto, però ci siamo trovati… Perché state facendo il bilancio di previsione sia pure a luglio, ma questa è un'altra regola del piffero del governo, che di anno in anno, siccome lui si deve fare prima i suoi conti, vi dà sempre più tempo per fare il bilancio preventivo, perché così si fissa le sovraliquote di cui ha bisogno lui, questa è la verità. Esatto, oltretutto stiamo migliorando da quel punto di vista, perché l'anno scorso hanno dato la possibilità di approvare il bilancio fino a novembre, quindi quest'anno abbiamo ancora è stato un aggravamento, ci hanno fatto da quel punto di vista, perché ci hanno segnalato praticamente i trasferimenti. Il punto di partenza è quello, i trasferimenti. A parte il metodo che è molto particolare, che è astuto anche per gli addetti ai lavori, ci siamo trovati due settimane fa, perché praticamente all'inizio del mese la comunicazione da parte del Ministero, andando sul sito del Ministero, ci hanno comunicato quelli che saranno i trasferimenti del 2014, e abbiamo avuto una mara sorpresa di fatto. Vado al assunto, perché poi è quello che ci interessa. Rispetto all'anno 2013 avevamo ricevuto trasferimenti per 507.000 euro, abbiamo la sorpresa che ci troviamo con un taglio netto, e non sappiamo il motivo, praticamente arriviamo a 131.000 euro. Questo qui saranno i trasferimenti che verranno fatti quest'anno e noi dobbiamo tenerne conto nel nostro bilancio. Questo ci impone, noi avevamo fatto già una serie con gli uffici, che tra l'altro lavorano in modo veramente pazzesco, perché tra una cosa e l'altra abbiamo fatto una marea di simulazioni. Non ce l'aspettavamo. No, non ve l'aspettavate, anche perché, no, ripetiamo la cifra, cioè si tratta di un taglio di proporzioni rilevantissime, cioè ripetiamolo, nel 2013 sono arrivati 507.000 euro. Esatto, e quest'anno sono 131.641. Ecco, quindi ne mancano 375.000 su 500.000, cioè non proprio una cosetta, ecco, per così dire. Assolutamente. E voi questo l'avete appreso all'inizio di luglio, e adesso avete pochissimi giorni per fare il bilancio preventivo sulla base di questa riduzione mostra dei trasferimenti dallo Stato, stabilita dallo Stato, senza dirvi perché. Senza dirci perché, oltretutto all'interno dei trasferimenti dell'anno scorso noi avevamo ricevuto praticamente 271.000 quale minor gettito IMU per la prima casa, perché sa che l'anno scorso lo Stato ha deciso di non far pagare la prima casa IMU, e quindi trasferiva ai comuni il minor introito, perché alla fine quei soldi lì dovevano essere percepiti dai comuni. Quindi di fatto abbiamo quei soldi lì, non abbiamo contezza di quanti possono essere, ma non viene indicato niente. Quindi il sunto è che noi abbiamo 375 euro in meno, 1.000 euro in meno. E quindi l'unico modo per tamponare i trasferimenti è quello di applicare l'aliquota, la somma delle aliquote tra IMU e TASI, che tra l'altro qua si parla di TASI, ma di fatto è un addizionale IMU, perché poi sono metodi di conteggio che sono astrusissimi, in autoliquidazione, quindi tutti siamo dovuti correre. Poi per il lavoro che faccio mi sono trovato anche a effettuare i conteggi, nel giro di 5 giorni abbiamo fatto i conteggi, ma quelli sono altri discorsi che se vuole possiamo parlarne altre volte, ma più volte abbiamo spiegato la follia IMU più TASI a che cosa porta a ristabilire un IMU maggiorata, in molti casi, non sempre, ma in molti casi sì. Ma la maggior parte. E poi oltretutto il caso strano è che quest'anno viene concesso tramite uno dei vari decreti di alzare la soglia massima IMU più TASI all'1,14, quindi praticamente la somma è casualmente, nel caso nostro, siamo costretti, noi, che poi alla fine poi ci mettiamo noi la faccia con i nostri cittadini, tra l'altro noi siamo amministratori e cittadini allo stesso tempo, quindi ci autotassiamo per riuscire a far quadrare il bilancio, non per andare a degli utili stratosferici, perché l'obiettivo del bilancio comunale è quello di arrivare al pareggio. Certo. Quindi da quel punto di vista ci troviamo costretti a. No, anche perché spieghiamolo, se uno fa degli utili poi non li può reimpiegare, quindi anche in questo lo Stato è proprio due volte stupido. Ma comunque. Oltretutto, con il patto di stabilità che effettivamente ci blocca da tutte le parti, non ci permette di utilizzare l'avanzo di amministrazione che c'è e reale e tutto, perché poi oltretutto ci sono anche gli altri discorsi da fare. Però comunque il fatto sta che noi andremo nel prossimo, adesso con molta probabilità daranno un posticipo anche questo, seguito queste situazioni daranno un posticipo al 30 di settembre. Comunque i primi di settembre. A Roma per esempio che viene salvata, a differenza di voi che venite tagliati, a Roma che è già stata salvata nel 2008 ma è risalvata fino al 2013, hanno già detto che il tagliaspese che doveva essere contestuale al salvataggio arrivato a dicembre con altri soldi pubblici del 2013 e il bilancio è prorogato alla fine di settembre, quindi secondo me arriverà la proroga per tutti, anche se in realtà è per Roma che serve, perché a Roma non hanno ancora iniziato a buttarlo giù a quanto pare. Vabbè, aspetti che adesso dobbiamo fermarci per 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo con l'assessore al bilancio del comune di Manta Cunese, comune virtuosissimo, ha ipertagliato la spesa ma lo Stato senza dirgli perché gli leva i più di 3/5 dei trasferimenti, e loro che possono fare? Alzare le tasse, perché questo è purtroppo l'effetto di queste regole stupide. E oggi sto scritto a Boretta ci dice, ma noi le supereremo, tra 3 anni le supereremo, ma... La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:48 minuti 42 secondi. Stiamo parlando della finanza locale, lo Stato che taglia i comuni, non premia per le regole che si è dato i più virtuosi, come quello di cui stiamo parlando oggi, ma li penalizza e comunica unilateralmente la diminuzione della quota di trasferimento in percentuali elevatissime, stiamo parlando di più dei 3/5 da un anno all'altro, e ovviamente gli amministratori locali, per quanto virtuosi, poi devono rispondere ai cittadini e della loro faccia quella per cui poi mettono le sovraliquote al massimo che lo Stato, guarda caso, alza poi, perché è tutto effetto di una decisione centrale. Tra i messaggi che sono arrivati, diciamo, ne divido 3 categorie, ce n'è una molto ampia di gente che protesta comunque riconoscendo le ragioni degli amministratori virtuosi, ce ne sono alcuni di comuni, per esempio ne leggo uno, Emanuele Rizzotto, che ci scrive da Vicenza e ci fa il caso di un comune, il comune di Costa Bissara, che ha modificato le tasse sulla casa però in modo tale da far sì che non si paga affatto sulla prima casa. Quindi qualche esempio, dice Emanuela, del fatto che se si vuole si può, c'è, e come? No, per carità Emanuela, io non dico di no, il problema è bisogna vedere per effetto di quale trascinamento storico nelle finanze di quel comune ce lo si possa permettere, perché a volte invece i comuni che pure sono stati molto virtuosi negli ultimi anni e non ce la si può fare comunque. Ripeto, ho fatto la cifra del taglio che hanno fatto alla spesa pro capite nel comune di cui parliamo oggi, che è un taglio rilevantissimo, perché su poco più di 1100 euro ne hanno tagliate 487 di spesa pro capite, quindi capite che più che questo che vuoi tagliare, però non ce la fanno comunque. Poi ci sono anche messaggi di assessori di altri comuni che solidarizzano con l'assessore Paolo Vulcano, che è con noi, il comune di Manta, ne leggo solo uno, Fabio, che assessore a Mortara, quindi provincia di Pavia, dove dice avviene la stessa cosa, perché la diminuzione dei trasferimenti dallo Stato è nell'ordine del 60% e quindi anche loro sono costretti a decisioni del tutto analoghe a questo. Allora Paolo Vulcano, torniamo al vostro caso, i cittadini come la prendono? Gli cittadini apprenderanno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché poi andremo a fare anche un incontro con i cittadini, perché voglio spiegare ai cittadini, faremo vedere nel dettaglio il bilancio per dare contezza di quello che stiamo facendo e andremo a spiegare le motivazioni che ci portano a fare questo incremento, che lo Stato praticamente si sta riducendo le spese, perché alla fine i trasferimenti li riduce e vuole sobbarcare al cittadino, ma come ha fatto già in passato, perché con la tassa, la TARES, gli anni passati ha già fatto così, perché ha detto il cittadino deve pagarsela completamente tutta e quindi non era distribuita, cioè non era, in precedenza era pagata anche con la fiscalità generale. In questo frangente i cittadini li vediamo poi noi, perché noi siamo lì sul territorio e ci vengono poi a chiedere perché abbiamo fatto una cosa di questo genere. Ricordiamo anche che il vostro stratosferico stipendio mensile è di 140 euro. Sì, percepisco riduisco in uno stipendio netto di 140, che poi sommato ancora ai miei redditi si riduce ancora, perché la tassazione non è... No, ma questo per dire che poi insomma, ecco, cioè, siete quelli che ci mettete la faccia nei piccoli comuni e non siete quelli che disastrano la finanza pubblica per i soldi che portate a casa. Nel frattempo sono io, chi è in ascolto, che oggi abbiamo appreso che il Presidente di Camera e Senato, quindi il Presidente Grasso al Senato e la Boldrini alla Camera, sono dell'idea di fare rientrare gli oltre 130 stipendi tra di funzionari pubblici apicali tra Camera e Senato, che sono oltre il tetto di 240.000 euro posto in finanziaria come limite per tutto il settore pubblico italiano, sono dell'idea di fare rientrare i 130 stipendi oltre 240.000 euro solo entro il 2018. Io vi risparmio quello che penso di cose simili, perché non ne posso più di avere assessori comunali che per 140 euro, cioè rimborso spese, ci mettono la faccia per far quadrare i conti, e di avere 130 funzionari oltre i 240.000 euro a Camera e Senato che se ne fottono della legge e si prendono col consenso dei gruppi politici e dei presidenti fino al 2018 per rientrare nel tetto, perché questa roba è intollerabile, questa roba giustificherebbe l'assedio di Camera e Senato, capite? L'assedio, sì, so di che cosa parlo, è un reato, l'assedio, perché non capisco come sia possibile che chi deve far tornare i conti pubblici in faccia ai cittadini è in queste condizioni e loro che stanno lontani e non rispondono di niente a nessuno pigliano tutta sta barca di soldi e se la continuano a prendere per 5 anni. Ma insomma, allora, e che si aspetta dai suoi concittadini una volta che lo apprenderanno, caro assessore? Sicuramente non cose positive, cercheremo di dare giustificazione appunto per far capire che non siamo noi che arriviamo, le do un'idea di quello che avevamo pensato prima di apprenderle completamente le notizie, perché i nostri uffici che hanno lavorato in precedenza facevano delle ipotesi di trasferimenti seguito dei parametri che venivano dati con delle indicazioni preventive che ci dava il Ministero, ma erano molto complicate anche da interpretare. L'idea nostra era quella di riuscire addirittura a diminuire l'IMU dal 9,9 all'8,9 per poi applicare la TASI all'1 per 1000 per arrivare alla stessa tassazione, quindi stavamo pensando, però abbiamo pensato fin troppo bene, da quel punto di vista, di mantenere la stessa tassazione. Alla luce invece della riduzione dei trasferimenti, perché noi dobbiamo seguire comunque un bilancio, cioè il principio della prudenza per stilare i nostri bilanci, arriveremo al punto di applicare, avere una piccola riduzione dell'IMU e applicare il 2 per 1000 della TASI, andando a fare una detrazione sulla prima casa per evitare di andare ancora. Di fatto però c'è un aumento delle imposte. È inutile appunto girarci intorno, sì. Di fatto bisogna dire ai cittadini vi beccate un aumento delle imposte, abbiamo tagliato la spesa però ve lo beccate comunque, abbiamo tagliato la spesa di oltre il 40%, vi beccate comunque l'aumento delle imposte, perché non possiamo fare altro, ripeto, quindi scusate, alcuni non capiscono, dicono ma scusa, non sei per ridurre la spesa? No, state attenti, io sono per delle regole che premino una riduzione intelligente della spesa. Qui stiamo parlando di regole che penalizzano riduzioni di spesa anche molto forti e le penalizzano con un aggravio fiscale che è deciso dal centro, anche se chi è obbligato a farlo ci mette la faccia per conto dello Stato in periferia. Questo è tutto sbagliato, per questo dico che sono regole stupide, perché capite che non è così. È anche troppo comodo che lo Stato centrale poi vi dica che sta abbassando le tasse, se invece scrivere le regole per cui localmente c'è chi ve le alza, però la colpa sembra sua, come nel caso dell'assessore Vulcano, non è sua, questo è il piccolo particolare, anzi lui non sa nemmeno la spiegazione da dare ai suoi concittadini, no. Ma perché ce li hanno tagliati così tanto i contributi, che cosa abbiamo sbagliato, visto che la percentuale come avete visto è superiore ai 3/5, e l'assessore dice non so che dirvelo, c'è un imperatore lontano che me lo ha comunicato e io su questo vi devo dire paghiamo tutti più tasse, non è che l'assessore non le paga, le paga anche lui. Ripeto, riflettiamo sul fatto che a Roma si paga, come potete vedere dalla tabella, il 7% in più del fabbisogno standard come spesa pro capite, eppure l'abbiamo salvata nel 2008 e l'abbiamo risalvata nel 2013 e non hanno neanche uno straccio di bilancio preventivo di tagli di spesa dopo 7 mesi dal secondo salvataggio. Perché bisogna accettare questa asimmetria? Non ce l'ho con i romani, io ce l'ho con la politica romana, destra e sinistra, perché la relazione degli ispettori sulle giunte che si sono susseguite non salvava destra e sinistra, ce l'era per tutti. Ma l'asimmetria è sbagliata, capite? Non è vero che siamo tutti in un solo paese, siamo con regole stupide, con effetti asimmetrici, a svantaggio dei migliori, che ci sono al nord come al sud, e questo è intollerabile secondo me. Grazie all'assessore al bilancio del comune di Manta e solidarietà ai suoi concittadini, è il caso di molti comuni italiani. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.